si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati all'appuntamento del sabato e della domenica da mezzogiorno alle 13 su Radio 24 con l'altra cronaca, l'altra attualità. Cerchiamo le buone notizie, le nuove tendenze che ci salveranno, notizie anche piccole e cose così. Per esempio questa notizia viene da Altamura: quando il comune non ci arriva, ci pensa il cittadino a fare cosa? A mettere le rastrelliere delle biciclette. Accade, e lo riporta simpaticamente il sito altamuralife.it, che un altamurano ciclista per passione si sia rivolto a un assessore di questa cittadina di 70.000 abitanti circa per chiedergli un intervento in questo senso, cioè distribuire rastrelliere per le biciclette che fanno bene all'ambiente, a chi le usa ma anche agli altri. E l'assessore gli abbia detto: beh, insomma, mettile tu, noi abbiamo altro da fare. Allora questo cittadino cosa ha fatto? Ha fatto proprio questo, si è messo lì, non so se le ha costruite in ferro battuto, le ha comprate e le ha distribuite proprio, tra l'altro credo, nei pressi del comune. Allora facciamo un appello a questo signore, noi vogliamo assolutamente sentirlo. Fino ad ora è rimasto anonimo l'ideatore e il realizzatore, diciamo così, di questo gesto di generosità nei confronti della città di Altamura, una cosa piccola ma che fa sorridere. Se ci sta ascoltando lui o chi lo conosce, bene, si faccia avanti, perché ci piacerebbe proprio sentire le sue parole. Un'altra notizia viene da Caserta: un birrificio nel carcere di massima sicurezza di Carinola, siamo in provincia di Caserta, tra ergastolani affiliati ai clan camorristici. Un progetto Birra della Legalità, promosso da Libera e dal comitato Don Diana. I detenuti saranno formati con appositi corsi per realizzare l'intero ciclo produttivo della bevanda. Una buona notizia, perché noi lo diciamo spesso, insomma, dentro il carcere non c'è solo merce scaduta, merce avariata, gente che deve pagare una pena, questo sì, ma anche persone che poi escono e speriamo che non ricommettano quello per cui sono entrati in carcere, persone che quindi vanno recuperate. Questo è un progetto che va in questa direzione. L'ultima notizia: noi parliamo spesso di baratto dai microfoni di Si Può Fare, e questa volta se ne parlerà anche nel comune di Santena o Santena, siamo in provincia di Torino, dove il sindaco in persona promuove il prossimo giovedì 6 dicembre un incontro con tutta la cittadinanza per promuovere non tanto il baratto, quello classico, ma per coinvolgere le imprese, chiamando una società esperta del settore che coinvolge già 1.500 aziende operanti in vari settori merceologici, dove ci si scambiano i servizi e le merci utili per ogni azienda senza pagare una lira. E questo è senz'altro una soluzione anticrisi. Noi di baratto parleremo ancora tra poco con la prima storia che ci porterà a Bari, ma è tutt'altra cosa. Aspettiamo le vostre notizie sul profilo Facebook del programma Si Può Fare trattino Radio 24, poi insomma siamo anche su Twitter, adesso si fa così, Si Può Fare 24, Ale Maurizi, ci trovate anche lì. Poi c'è la segreteria telefonica 800 28 12 12, prosegue la nostra richiesta nei vostri confronti, lasciateci una ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Continua ad andare per la maggiore in questa fase, è un po' la lamentela del cittadino sulla questione delle tasse e della casta. Ricetta per salvare l'Italia: abolire gli studi di settore, in particolare per quanto concerne la piccola impresa, ma anche la media alle volte, e la monoimprenditorialità. Ecco, si parte di qui e le cose miglioreranno. Il nero salterà fuori, perché la gente è terrorizzata dagli studi di settore, che sono un vero e proprio ricatto. Buongiorno, grazie. Allora, non è giusto che i vitalizi si cumulino, retroattivamente, e non è un'ingiustizia, si possono togliere i cumuli e lasciare un unico vitalizio, magari il maggiore. Non è giusto se io faccio due lavori, alla fine avrò una pensione, non avrò il cumulo delle pensioni, cambiando lavori, quindi si può agire anche retroattivamente. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 800 28 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. If you were in My Shoes, Se tu fossi nei miei panni, è il titolo di questa canzone, ed è quello che hanno sicuramente pensato gli ideatori, i realizzatori di questa nuova iniziativa di aiuto a chi ha più bisogno, basata sul baratto, un'iniziativa che viene da Bari, ma che sembra avere delle caratteristiche più estese rispetto al classico scambio di oggetti che caratterizza normalmente il baratto. Ne parliamo con Ezio Marzulli, imprenditore, presidente dell'associazione Equanima. Buongiorno. Buongiorno Alessio. Prima di tutto è chiaro che quando ci si deve rivolgere a qualcuno per il proprio abbigliamento, per i vestiti, vuol dire che insomma la situazione sicuramente non è buona. Però insomma, lei ci conferma che in questa fase la gente che si rivolge agli istituti caritatevoli, ed è un po' quello che fate anche voi, tra l'altro credo d'accordo con la chiesa locale, ci sono in aumento queste persone? Sì, assolutamente, quello che dici è vero, anche se alla fine noi riprendiamo una pratica che esiste da tantissimo tempo. Diciamo che le parrocchie si sono sempre occupate della distribuzione, certo, di indumenti e alimenti. È cambiato il modello, è cambiato il bisogno. Diciamo, se prima era marginale il fenomeno, adesso siamo in presenza insomma di numeri più importanti. Anche per questo noi come associazione abbiamo cercato di creare un qualcosa di più moderno, diciamo, di più al passo con i tempi. Ed è questo proprio che sembra di percepire, così cercando di capire quello che voi state facendo, perché adesso poi lei ci spiegherà nel dettaglio. In pratica quello che si capisce è questo, cioè c'è un'estensione del concetto di baratto, si può donare per esempio anche il tempo, si porta e si porta a casa via quello di cui si può avere bisogno, e quindi ci racconti un po' quello che avete messo in piedi in questa vostra iniziativa a Bari. Sì, in realtà non si tratta propriamente di baratto, Alessio. Noi abbiamo ripreso sostanzialmente la buona pratica della donazione di ciò, degli abiti che non servono più, attraverso le parrocchie. Soltanto che noi come associazione non abbiamo cercato di mettere in rete queste realtà, quindi forniamo le parrocchie che aderiscono al progetto di nostri contenitori, sì, in cui le persone possono liberamente donare ciò che loro non usano più. Gli indumenti donati vengono poi selezionati dai volontari dell'associazione e redistribuiti secondo modalità differenti e a persone diverse, secondo il concetto che chi ha qualcosa da offrire, diciamo, sì, prende ciò di cui ha bisogno e dà quello che può. Chi non ha nulla da offrire prende quello che gli serve in maniera gratuita. Certo. E quindi abbiamo diverse, diciamo, diverse linee di azione degli indumenti selezionati. Distribuiamo gratuitamente senz'altro ai senza fissa dimora, diciamo che è la fascia più debole in questo momento, e quindi siamo in grado di fornire un buon numero di capi di vestiario a queste persone. Si può fare cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo in diretta e stiamo raccontando l'iniziativa Equanima che si svolge a Bari, dove partendo dal bisogno di chi più ha bisogno si sta però cercando di dare una risposta più moderna, ci diceva il signor Marzulli, più al passo con i tempi, mettendo un po' in rete tutti i bisogni che ci sono e anche donando per esempio il tempo, cioè uno sa fare una cosa, può fare una cosa, mette a disposizione anche queste sue abilità. Perché non si butta via niente. Sì, è possibile tranquillamente donare il tempo, e questa è una cosa che fanno tutte le persone che fanno volontariato in associazione, e anche persone che magari in un primo momento si sono rivolte a noi per una condizione di bisogno, però scoprono poi che non c'è necessariamente il gesto unicamente passivo del ricevere qualcosa, ma magari decidono di tornare a dare una mano per un po' di tutto. Qualche ragazzo qualche giorno fa ci ha aiutato a sistemare una stanzetta che diventerà il camerino per la prova, e cosa che ci ha fatto molto piacere, perché nessuno di noi era in grado, per esempio, di mettere mano a pennelli e vernici, insomma, tanto per fare un esempio. E quindi avete avuto anche questa possibilità. Io, tra l'altro, la ringrazio. Lei, perché nella vita fa altro, no? Poi diciamolo, non è che si è volontari per professione. Lei fa l'imprenditore, si occupa anche d'altro, però dona una parte del suo tempo a questo, che non è una cosa da poco. Sì, sì, è vero. Sì. L'idea era quella di mettere anche a disposizione di questo settore, cioè diciamo il terzo settore, chiamiamolo così, anche un'esperienza di tipo un po' più imprenditoriale, quindi ho applicato anche a questo, sto applicando a questo settore magari dei principi di sana organizzazione un po' più imprenditoriale, che di cui sicuramente c'è bisogno anche in questo settore più specifico, a parte il discorso appunto del volontariato. Benissimo, ecco, benissimo. Volevo anche sottolinearti poi la linea di assistenza alle famiglie, sì, che probabilmente è abbastanza importante. Quindi come ti dicevo prima, il banco abbigliamento, che poi insomma è il progetto principale di Equanima, il banco abbigliamento solidale, fornisce gratuitamente i senza fissa dimora, ma stiamo implementando un servizio di assistenza anche alle famiglie in condizioni di bisogno, che sicuramente hanno bisogno di un trattamento un po' diverso da quello di chi non ha casa e ha bisogno di vestirsi. Per queste famiglie noi abbiamo creato uno sportello di accoglienza a cui chiunque può rivolgersi, e i volontari, una volta verificata diciamo la condizione di queste persone, gli fornisce una tessera con dei punti, ecco, diciamo così. Noi utilizziamo una moneta virtuale nel banco abbigliamento, sì, anche perché comunque c'è una differenza fra capo e capo, e a tutto viene attribuito un valore, come ti dicevo, di tipo virtuale. La nostra moneta si chiama ECU, non so se questo ti ricorda qualcosa. Era l'ECU, l'abbreviazione europeo. Esatto, sì, oltre ad essere l'abbreviazione del nome dell'associazione, sì, in realtà per un gioco di parole è anche il nome della prima moneta europea che non aveva corso all'epoca. Quindi ecco, si acquista in ECU e queste famiglie ricevono una card caricata con questi punti, dopodiché sono libere di servirsi di ciò che vogliono, di ciò che gli piace, di ciò che gli sta bene. Grazie Ezio, noi abbiamo capito questa come dare anche una veste più strutturata, più moderna, lei ha detto imprenditoriale, a queste iniziative di aiuto basate anche e non solo sul baratto. Equanima da Bari, cari ascoltatori che ci state ascoltando, magari prendete spunto, sono iniziative che insomma non sono originalissime o non saranno rivoluzionarie per quello che riescono a fare, ma insomma nel loro piccolo riescono a dare una mano in modo intelligente, favorendo anche la partecipazione delle persone a chi ha più bisogno. Tra poco con un'altra storia. Dei progetti che hanno partecipato al concorso, sapete, indetto da InGDirect per vincere 100.000 euro, la migliore startup, la migliore impresa di giovani che vincerà questo premio. Ci sono arrivate oltre 1.000 adesioni, partecipazioni. Una di queste è I Save the Planet, un po' meno di Io salvo il pianeta, ma anche un po' più di Io salvo una singola pianta. Di che si tratta? Lo chiediamo a Stefano Benetti, che è fondatore di questo sito web, ma è anche una applicazione. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Prima di tutto, di che si tratta appunto con questa vostra idea che poi è stata anche presentata ufficialmente a Torino, quindi diciamo avete fatto già un primo step rispetto a quello che poi sarà il vincitore di questo concorso. Sì, l'idea è nata da Alessandra Barzani, una mia collaboratrice, perché arriva il pollice nero e quindi ci siamo detti perché non creare un sistema, una community dove le persone possano aiutarsi l'un l'altro, sì, e imparare gli uni dagli altri a curare le piante, a riconoscerle, a riprodurle in modo che non soffrano le piante di casa. Quindi l'idea è quella di fare del bene alle piante. Perché insomma io ho anche già visitato un po' il sito, poi è facile, basta andare su isavetheplant.it. Sì, esatto. Sì. No, .com. Beh, comunque basta digitarlo su un motore di ricerca e si trova. E insomma, ci sono le foto delle piante, si possono trovare il male della mia pianta, una foglia ingiallita piuttosto che... Cioè, sembra una cosa anche un po' così leggerina per chi non ha il pollice verde, però in effetti mettere a disposizione un campionario di possibilità e di curiosità su questo universo per chi ama le piante, e voi aggiungete di più, il mondo si può salvare solo aggiungendo piante, quindi anche un concetto diciamo di sostenibilità, ecco, tutto questo è abbastanza gustoso. La domanda però è: qual è il modello di business? Cioè, voi avete pensato questa cosa che per ora è più che altro un social network? Sì, all'inizio noi l'abbiamo pensata per fare del bene, quindi abbiamo pensato di creare un'app che permettesse a chiunque di scattare velocemente la foto della pianta di casa sua che sta soffrendo o comunque che ha delle foglie ingiallite, per curarla e per migliorarla in modo che la community potesse aiutarli direttamente proprio sul cellulare per dare immediatezza. Dopo, adesso la stiamo sviluppando sempre più, vogliamo dare servizi aggiuntivi e speriamo di ricavarne in un futuro un modello di business, quale può essere dei servizi aggiuntivi, un SOS pianta per salvare la pianta più in difficoltà, perché non è solo piante di casa ma anche piante di giardino, quindi ci possono essere tantissime casistiche. Oppure anche dare indicazioni su dove andare a comprare, il concime raro piuttosto che la pianta, esatto, rarissima. O la pianta, cioè, che non si riesce a trovare, quale negoziante, tra virgolette, quale vivaista può averla. Mm. E quindi creare servizi aggiuntivi che aiutino la community, sì, però che si sposino senza sporcare con pubblicità né l'app né il servizio, sinceramente. E chi sono gli utenti? Gli utenti sono diffusi in tutta Italia, attualmente l'abbiamo aperto solo all'Italia, sì, ma vogliamo aprirlo al resto del mondo a breve, perché vogliamo farlo in una casistica internazionale. Devo dire che anni fa, forse qualcuno se lo ricorderà, chi faceva il servizio militare c'era un la visita per la leva, per essere abilitati, c'era una domanda nel quiz in cui ti chiedevano: vorresti fare il fioraio in un futuro lavorativo? E se tu rispondevi sì, girava voce, non so se poi era vero, ti mandavano a fare il colloquio con lo psicologo perché veniva ritenuta una cosa un po' bizzarra. Sono cambiati i tempi, Stefano? Per fortuna sì, per fortuna non ci sono più discriminazioni sociali e quindi questi problemi penso non ci siano più, anche se non saprei, bisognerebbe chiedere all'arma militare se ha cambiato quei quiz. Penso di però, sì. Era anche considerato una cosa di scarsa virilità un uomo che si interessava, sì, alle però piante. Vediamo invece... che nella nostra community ci sono tantissimi uomini, tanti giardinieri, tanti vivaisti, ma anche botanici che si appassionano alle piante, quindi non penso che sia... E poi questa era più che altro una battuta. Mi piace molto quello che avete scritto. Per salvare il mondo si parte dal proprio giardino, ammesso che uno ce l'abbia, prendendosi cura del verde intorno a te. Il mondo migliore, un mondo migliore, una pianta alla volta. Noi, il nostro programma si chiama Cronache da un paese migliore, abbiamo delle affinità. Sì. No, l'idea è proprio quella, nel senso dalle piccole cose cercare di migliorare la qualità della vita, la qualità di tutto ciò che ci circonda e di conseguenza anche la nostra. Va bene, grazie intanto e vedremo quali saranno gli sviluppi, se magari vincerete il premio da 100.000 euro, ve lo auguro. isavetheplant.com, questo era Stefano Benetti, uno dei due fondatori di questa curiosa app, che è anche un sito, se volete scaricarla. Dove si va? Sullo store classico dell'applicazione? Sullo store di Apple, basta andare su sotto di Apple e visitare il sede Plente e arriva l'acqua direttamente. Va bene, grazie per essere stato con noi. Intanto ci risentiremo sicuramente più avanti. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno, ben ritrovati in diretta, cari ascoltatori. Vi ricordo i nostri contatti, scriveteci le vostre buone notizie durante la settimana, potete commentare quello che avete sentito in onda. Si può fare trattino Radio 24, la pagina Facebook, siamo già in molti, possiamo diventare molti di più. E poi siamo anche su Twitter per gli amanti, si può fare 24, io Ale Maurizi. E allora riprendiamo tra poco con un'altra storia, questa storia impegnativa, sentirete perché viene da Mantova. I Am Mine, dice questa canzone di Pearl Jam, ed è il senso della storia di cui parleremo tra un attimo. Io sono mio, chissà se è questo che ha pensato tanti anni fa Sergio Mambrini. Intanto lo salutiamo, buongiorno Sergio. Buongiorno Alessio. In due secondi, per riassumere una biografia lunghissima, ex operaio Montedison, una fabbrica chimica a Mantova, oggi dell'ENI, ammalatosi lui come tanti altri, e tra l'altro alcuni è andata male, ci sono delle vittime e c'è un processo dal 2008 per le morti in questa azienda chimica, uscito alla fine degli anni 70 dalla fabbrica. Ha aperto tutto un percorso diverso basato sulla ricerca sulla salute e sull'alimentazione, è arrivato ad aprire un ristorante una quindicina d'anni fa, un ristorante biologico, dalla chimica al biologico. Oggi tutto questo percorso Sergio lo rivede in un romanzo che si intitola Fango Nero, un romanzo dove ci sono dentro tante cose che assomigliano però anche alla realtà. La prima parte di questo romanzo è La fabbrica, sì. Sergio. Io ho scritto questo romanzo chiamandolo Fango Nero per almeno tre motivi, ecco. Il primo motivo è la parola fango, che ha un duplice significato però. Il primo significato della parola fango è quello materiale, cioè il fango è una sostanza flaccida ma potente, insomma, no? È quella che sommerge. Sì. E difatti nel romanzo descrivo questo fenomeno di un avvenimento che è successo nell'85, della strage perpetrata nella valle del Rio Stava, dove la Montedison era proprietaria di una miniera. Le discariche sono crollate e hanno ammazzato 268 persone. Lo chiamo Fango Nero anche il romanzo perché c'è un legame col petrolio. Non solo dalla ditta che ha gestito queste miniere e gestiva l'attività chimica, una delle attività chimiche più potenti d'Europa qui in Italia, insomma, e in particolare a Mantova. Quindi questo petrolio che è stato, come hai detto anche tu prima, devastante nella sua lavorazione e purtroppo, diciamo, anche nel suo abituale utilizzo giornaliero, anche per noi, insomma, no? Nel romanzo do un doppio significato a questa parola di fango. Ecco, questa connotazione che do è un po' quella biblica, quella del soffio vitale, della nascita, o meglio, di una rinascita. Mm-hmm. Ecco, questa è la storia che poi è il centro, il perno del libro, no? È questa rinascita. Poi c'è la parte, Sergio, la parte della rinascita, appunto, che sì, è quella nella quale tu hai preso tutta un'altra strada, ti sei cominciato a occupare della salute, proprio per l'esperienza che avevi avuto, e sei approdato ad aprire uno dei primi ristoranti biologici in Italia, proprio nel territorio dove tutto questo è accaduto. Questo sì, accadeva quasi 15 anni fa. Sì, no, anche un po' di più, insomma. Diciamo che l'inizio di questa attività è stato gli anni 70, insomma, gli anni del discrimine, delle scelte, delle grandi scelte. Purtroppo tanti si sono buttati a sparare, a buttare bombe. E io, come tanti altri in Italia, abbiamo scelto un'altra strada. Appunto, la prima parte del libro si chiama Un'altra strada. No, no, non è solo un'altra strada rispetto ai processi produttivi, proprio un'altra strada rispetto alle politiche, diciamo, emergenti, insomma, anche queste questi fatti luttuosi, distruttivi, le bombe che sono state buttate, Piazza Fontana, Bologna, sono stati devastanti per la società italiana queste cose, ecco. Io, insieme a tanti altri, come ti dico, abbiamo cercato... Sì, però Sergio, arriviamo anche alla parte più attuale, cioè alla tua vita di oggi, dove tutto questo che hai alle spalle conta ancora molto. Però probabilmente anche il lavoro che stai facendo, nuovo, occuparti di tutta questa... di queste questioni, la salute, l'alimentazione, il tuo ristorante, è cambiata l'Italia in questi anni in meglio, come forse sei cambiato in meglio tu? La storia che racconto io, insomma, è una storia che non c'è sui libri. Oggi le persone sono molto distratte. È cambiata, la società è cambiata, è stata rigirata come un calzino. In meglio non lo so, ecco, questo non te lo so dire. Certo, ci sono molte proposte positive che viaggiano oggi nella società e che andrebbero ascoltate. Evidentemente, per esempio, pensare all'agricoltura biologica è una proposta veramente di rottura per quanto riguarda il futuro dell'umanità, non solo della nostra società, non solo per l'Italia, insomma, no? Cioè, pensare a un'agricoltura che rispetti l'ambiente, che produca, che mantenga la fertilità del terreno, del suolo e che dia un futuro all'umanità, non è certo rivolgersi al passato, è progettare un futuro, è da qui che bisogna ripartire. Quando si parla, oggi è di moda parlare di decrescita, si parla di decrescita, sono vasi comunicanti, no? Se noi facciamo decrescere le parti negative, aumentano quelle positive. Dobbiamo decrescere l'infelicità e crescere la felicità. Bisogna essere precisi in questa decrescita. La decrescita non è meno e più infelici, è più positivo per noi un'alimentazione sana, un ambiente pulito, acqua disponibile pulita, è più felicità. Non so se mi spiego. E va bene, grazie Sergio. Noi però purtroppo abbiamo esaurito il tempo, perché insomma di cose da raccontare intorno a questa vicenda ce ne sarebbero tante, ma del resto tu Sergio il libro l'hai scritto apposta, Fango Nero, chi volesse approfondire, chi fosse rimasto colpito da questa storia che è piena per certi aspetti anche di misteri, ma di vita vissuta, di sofferenze, ma anche di rinascita, Fango Nero lo trovate in tutte le librerie, verrà presentato e vi daremo notizia delle presentazioni che farà Sergio anche a Milano, lo scriveremo da qualche parte sulla pagina Facebook, sui siti, e ci risentiremo. Grazie per essere stato con noi. Ti ringrazio te Alessio e saluto tutti i tuoi ascoltatori. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare, si può fare, si può venire o lasciare, si può fare, partire, ritornare, puoi tradire, conquistare, puoi dire, puoi negare, puoi giocare, lavorare, odiare, puoi amare, si può fare, puoi prendere o lasciare, puoi volere, puoi lottare. E rinunciare, si può fare, puoi prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Come è andata a finire? L'Italia è un paese dove ci sono annunci, proclami, inaugurazioni ogni momento, e noi mesi dopo andiamo a ripescare le notizie che anche noi abbiamo dato per vedere come sono andate a finire. L'avevamo conosciuta qualche mese fa, la ristoratrice fiorentina che aveva messo su un ristorante basato sul concetto del baratto. Adesso, mesi dopo, ci chiediamo, suspense, come è andata a finire il ristorante? C'è ancora? Funziona? Donella Fagion, buongiorno, ben ritrovata. Siete ancora sì, lì? Buongiorno. Buongiorno a voi. Sì, sì, sono qua. Siamo qua. Siamo qua. Prima di tutto siete qua, avete aperto, perché quando ci eravamo trovati eravate a, come dire, qualche giorno prima dell'apertura annunciata. Abbiamo aperto e ora sono 2 mesi e mezzo, anzi 3 mesi ormai. Sì. E stiamo facendo il baratto. È una cosa, diciamo, che di cui noi parliamo spesso, finché si fanno le bancarelle e si scambiano le cose, vabbè, però un ristorante dove si può pagare portandosi dietro anziché il portafogli qualcos'altro è una cosa più originale, più difficile anche da sostenere. Ecco perché ci siamo chiesti, ma Ce la state facendo, ce la state facendo. Come ce la stiamo facendo, non facciamo solo baratto, certo, ovviamente, perché non ce la faremo altrimenti, però ce la stiamo facendo e stiamo incontrando persone che capiscono e sono entrate nella mentalità del baratto, ed è divertente, è bellino, vengono fuori delle serate belline. Immagino, ora ce le racconterà Donella, perché la mentalità, la giusta mentalità, però ci saranno anche persone, mi diceva, che non sono entrate in questa giusta mentalità e arrivano con degli oggetti stravaganti, cose che non c'entrano nulla. E magari questi bisogna spiegarli. Sì, esatto, un po' spiegarli, indirizzarli. E anche io con mentalità di baratto intendo anche l'idea di prendere una cosa che non si utilizza e barattarla per ottenerne un'altra invece si utilizza, non andare a comprare una cosa per barattarla, sì, perché si perde il senso, insomma. E poi lei dice: io vorrei qualcosa possibilmente che magari posso riutilizzare anche nella mia attività di, certo, di ristorazione, perché certo perché se uno viene con un cappotto usato è tra due persone, si baratta e una che prende deve avere un'utilità in quella cosa, o che sia una collezione, nel nostro caso un ritorno tra virgolette economico, anche perché una bottiglia di vino io poi a mia volta la posso riutilizzare anche certo, nel menù. Tra l'altro, diciamolo, il nome del ristorante è anche questo particolare, se no non poteva essere adatto a voi, Le Maiala, perché quando c'è la crisi è proprio Maiala, si dice così a Firenze, no? Si sente dire parecchio a Firenze ultimamente. Perché voi siete nati proprio sull'onda anche un po' di questa nuova fase economica che stiamo vivendo. Sì, certo, dura, infatti comunque è un posto dove i prezzi a prescindere sono popolari, anche perché se no non avrebbe senso, insomma, per un menù da 40 euro a persona e poi fare il baratto, insomma. Ma questa crisi, Donella, ci sta davvero cambiando un po', ci sta entrando un po' dentro? Lei che, cioè, andiamo verso nuovi stili di vita, che ne so, lei che panorama vede da questo osservatorio particolare che è il ristorante Le Maiala? È cambiato tanto, io sono anni che vivo locali, notte, giorno e via dicendo, e è cambiato tanto, non si esce più come prima, quanto prima, e quando si esce si pretende. Cioè c'è una vita meno godereccia, insomma, ecco, questo sicuramente. Bravo, prima su 5 sere, se una sera mangiavi così, vabbè, tanto vo' domani. Ora è una sera e quella sera bisogna star bene, insomma. No. Ah, quindi si concentra, lei dice, il piacere e cioè l'aspettativa in quella uscita, si cerca di massimizzare, si esce di meno, però. Quindi c'è anche una ricerca di qualità da un certo punto di vista. Ma sì, perché uscendo meno, sì, quel poco che uno esce non può star male, se no è una tragedia. Allora quel poco che uno esce cerca anche la qualità, secondo me. Secondo quello anche che si vede, ecco, voglio dire, non anche i clienti che noi abbiamo non vengono a mangiare il piattino d'insalata. Cercano la tagliata, però la tagliata deve essere buona, capito? Quindi è un... però vengano una volta, cioè non c'è la ricorrenza che c'era prima. Io mi ricordo 15 anni fa si era fuori tutte le sere, sempre, cena dopo cena, ora no. Ora non si fa. Io Donella, sì, se lavoro, lei è d'accordo, però... vabbè, certo, sono cambiati i tempi. Prima era lei che usciva, adesso è lei che si occupa del ristorante. Quindi, beh, insomma, che si fa per campare. Donella, se è d'accordo, magari ci risentiamo più avanti. La usiamo un po' come sentinella, testimone di questa crisi, visto che con questo ristorante, Le Maiala a Firenze, state un po' anche testando tutto questo, la reattività della gente, con un'iniziativa basata anche sul baratto. E se è d'accordo, magari. Ci riproviamo. Intanto siete lì, il ristorante è partito, ci siete, funzionate, e questa è già un'altra buona notizia. Grazie a Donella, grazie anche a tutti gli ascoltatori. È tutto per la puntata di oggi. Io ringrazio Franco Piantanida in redazione, Andrea Piana che ha scritto con me il programma, Matteo Comes in regia, ad Alessio Maurizi l'augurio di una buona giornata. Ci risentiamo sabato prossimo. L'anno scorso, quando tutta l'Italia moriva di freddo a febbraio, Alemanno ha fatto un mini rimpasto della sua giunta e in fotografia sui giornali apparivano le due signore Segni e quell'altra che non mi ricordo chi fosse, tutta scollacciata, senza cosa, mentre noi cercavamo disperatamente con 7 golf di proteggerci dal freddo. Vorrei sapere che temperatura c'era nell'aula del comune. Grazie. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Sì!